i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. La guerra delle donne. Le partigiane ebree nella rivolta del ghetto di Varsavia, di Paola Pucci. Ogni guerra, nella sua drammaticità, ha una sua storia. E nella storia di ogni guerra, le donne hanno sempre avuto un ruolo, quasi mai marginale. La guerra delle donne potrebbe riempire infatti pagine di storia, rivelando episodi inediti o comunque poco conosciuti, come la guerra delle partigiane ebree che guidarono la prima insurrezione antinazista nel ghetto di Varsavia nel gennaio del 43. A distanza di 80 anni, è importante restituire alla memoria i volti e i nomi di queste donne. Donne che si distinsero per coraggio, passione e per uno spirito di abnegazione estremo, tanto che gli stessi nemici furono costretti a riconoscerne il valore. Quando facemmo irruzione nel ghetto, ci trovammo davanti a donne non comuni, forse demoni o dee, quasi creature mitologiche, vere e proprie guerriere che riuscivano a sparare impugnando armi con entrambe le mani, velocissime ma al tempo stesso precise e determinate. Si muovevano in modo agile e scattante, come vere amazzoni. Questa la definizione data dal comandante tedesco Jürgen Stropp, che diresse l'operazione di repressione. Fu il comandante delle SS Himmler, recatosi in visita a Varsavia il 9 gennaio 1943 e rimasto contrariato per il fatto che nella capitale polacca vi fossero ancora moltissimi ebrei impegnati in fabbriche di proprietà tedesche, a disporre una drastica epurazione del ghetto verso il campo di concentramento di Treblinka. Per i nazisti questa operazione avrebbe dovuto essere quasi una passeggiata. Invece si trovarono di fronte una vera resistenza efficacissima e tenace, messa in atto da ragazze e giovanotti senza esperienza militare, e alla fine proprio i tedeschi si ritrovarono a contare morti e feriti. Tutto merito delle partigiane ebree che guidarono l'insurrezione. Ed è fondamentale ripercorrere la storia di quegli anni per capire realmente la portata dell'insurrezione antinazista nel ghetto di Varsavia e il ruolo svolto dalle partigiane. Istituito il 16 ottobre del 1940, il ghetto di Varsavia era il più popolato. In uno spazio di 3,4 km quadrati furono costrette a vivere 450.000 persone, pari al 30% della popolazione totale della città. Oltre che dal sovrappopolamento e dall'impossibilità di sostenersi con un lavoro, la vita era resa estremamente difficile da frequenti interruzioni di elettricità e acqua corrente, dalle terribili condizioni igieniche, dal divieto di comunicazioni e contatti con l'esterno e dalla carenza di cibo. Nel tempo, la situazione da sovraffollamento divenne sempre più insostenibile. Ma nel 42 qualcosa cominciò a cambiare. La traumatica esperienza delle deportazioni dell'estate 1942 e la fallimentare politica di acquiescenza attuata dal Consiglio ebraico spinsero alcuni giovani di movimenti e partiti già attivi prima della guerra, come Hashomer Hatzair, sionista, e il Bund socialista, a dar vita ad una organizzazione ebraica di combattimento, la Gidoska Organizzazia Bojova. E a questo punto intervengono le figlie della resistenza. Dopo aver assistito alla brutale uccisione di familiari e vicini e alla violenta distruzione delle loro comunità, decine di giovani donne ebree, alcune ancora adolescenti, si organizzarono in un vero e proprio movimento di resistenza femminile antinazista. Documenti, diari e testimonianze riportano alla luce i nomi di Zivia Zelina, leader della ZOB, di Frumka Plotnika, preziosa staffetta, di Tosia Altman, bellissima e sfortunata, che morì tra le fiamme del ghetto. E ancora Itzia Pesachon, severa e autoritaria, che sarà ricordata per essere sempre riuscita a nascondere il suo revolver in una pagnotta, o Irena Adamovic, ricca borghese cattolica e simpatizzante del sionismo. E ancora Renia Kukielka, Zeka Klinger, Ruska Korkak e Witka Kempner. Erano colte, parlavano un polacco fluente, avevano fatto parte di gruppi sionisti e credevano nel socialismo, nel lavoro manuale, nella parità dei sessi. La loro azione fu strategica e mirata. Si improvvisarono in tutto e riuscirono a interpretare ruoli molteplici per condurre la loro guerra contro il nemico invasore. In veste di corrieri, combattenti armate, agenti di servizi segreti e sabotatrici, queste ragazze del ghetto rischiarono la propria vita con coraggio e nervi d'acciaio. Grazie al loro livello culturale e alla loro avvenenza, riuscivano più facilmente ad entrare in contatto con i nemici. Riuscirono a corrompere guardie della Gestapo per ottenere informazioni preziose, sedussero ufficiali nazisti per poi ucciderli, organizzarono attentati alle linee ferroviarie tedesche e fecero saltare le reti elettriche. Scrissero bollettini per le radio clandestine, negoziarono con i proprietari terrieri polacchi e si occuparono di gran parte dell'amministrazione della resistenza. Si prodigarono per costruire reti di ricoveri sotterranei, assistettero i malati e aiutarono gli ebrei a fuggire dai ghetti. Svolsero missioni di spionaggio per Mosca, distribuirono documenti falsi e volantini, rivelando al mondo tutto ciò che stava accadendo agli ebrei. Furono centinaia le attiviste cadute nell'oblio che operarono in oltre 90 ghetti dell'Europa orientale e nelle principali città polacche. Il ricordo di queste donne rimarrà sempre legato alla rivolta antinazista del ghetto. Diversi loro destini negli anni. La staffetta Frumka Plotnica morì il 3 agosto del 43, dopo essere stata catturata dalla Gestapo. La leader Zivia Zelina continuò l'azione di lotta fino al maggio del 43 e si ricorda anche un ulteriore episodio. Una volta la videro spuntare coperta da liquami, dopo aver percorso chilometri nelle fogne di Varsavia. Finita la guerra, si trasferì in Israele, dove fondò un kibbutz e lasciò un memoriale, e così fece anche la partigiana Renia Kukielka. Queste fiere figlie della resistenza hanno scritto un'importante pagina di storia e non solo un racconto di guerra e di lotta, ma anche di sopravvivenza, amicizia e solidarietà femminile. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.